Voi volete che io vi parli del Natale, o perlomeno siete venuti qui per prepararvi al Natale. E allora che ho pensato che in questi giorni siamo proprio dentro la novena del Natale, e pensate che la stessa cosa accade sia nel rito romano, che ci sono tutte le messe 17, 18, 19, no? Dicembre. Poi nel rito ambrosiano c'è anche la novena del Natale, si chiama in modo diverso, si chiamano ferie prenatalizie dell'accolto, eh? E utilizzano testi un po' diversi, però alla fine tutti utilizzano, alla fine, insomma, nel Vangelo sono testi abbastanza simili, puntano molto sui Vangeli dell'infanzia di Gesù, il rito ambrosiano San Luca. Tutto il racconto di San Luca, il rito romano, anche i Vangeli di San Matteo. E poi domani ci sarà la domenica dell'Avvento, per il rito romano è la quarta domenica dell'Avvento, e per il rito ambrosiano invece gli ambrosiani festeggiano la maternità divina di Maria, la festeggiano mentre nel rito romano è dopo Natale. Loro prima, la domenica precedente al Natale, la domenica dell'Incarnazione, cioè festeggiano questo mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. È molto bello che sia così. Allora, io ero un po' incerto fra i due Vangeli, quello romano e quello ambrosiano, ma vanno bene tutte e due, perché nel romano si legge il Vangelo dell'Annunciazione a Maria, in quello romano si leggerà quello subito dopo, quando Maria va a trovare Elisabetta. E allora io pensavo che tutto questo ci aiuta a pensare che la Madonna è vicino, che la Madonna, cioè, ci aiuta a mettere l'attenzione della mente e del cuore su Maria e sulla sua attesa di Gesù, che ci sta portando al mondo, sta portando a ciascuno di noi. E noi possiamo rivolgerci a lei perché ci aiuti, ci accompagni a vivere bene, santamente, insomma, con gioia questo Natale, noi, e poi a diffondere intorno a noi questa gioia. E allora io pensavo di. Mentre mi preparavo questa meditazione, stavo pensando che forse il Vangelo dell'Annunciazione è il Vangelo su cui più ho predicato in tutta la mia, cioè, la vita sacerdotale fino adesso, perché spessissimo nella liturgia viene citato e poi perché è molto bello, no? Perché è la vocazione di Maria, anche quello che viene subito dopo, no? La visita a Elisabetta, sono i misteri della gioia del rosario, sono pagine bellissime e io direi anche inesauribili, cioè ogni volta che le leggiamo sono nuove, perlomeno a me succede questo. Voglio provare a passarvi un po' di questa novità perenne, di queste parole di Dio che stanno nel Vangelo di San Luca. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata. E si domandava che senso avesse un saluto come questo. Allora ci soffermiamo un momento su questo primo impatto di questa giovane Maria, che è nostra madre, con l'apparizione di un angelo che non viene spiegata, non ci viene detto com'era questo angelo, come si presentava, come lei comprende che è un angelo. Ma evidentemente per lei è chiaro che è così, è lei che ci racconta questo, è l'unica protagonista. E di questo evento, e quindi se San Luca lo racconta è perché l'ha sentito raccontare da lei, o più probabilmente ha ricevuto da altri quello che lei ha raccontato, o ha scritto, chi lo sa, oppure ha scritto qualcun altro per tenere memoria di ciò che Maria di Nazaret raccontava ai discepoli di Gesù, sia forse anche prima che Gesù morisse in croce e poi risorgesse il terzo giorno, e sicuramente dopo, quando è avvenuta l'ascensione, quando è avvenuto la Pentecoste, quando stavano insieme, no? Maria stava insieme agli apostoli a pregare e attendevano la discesa dello Spirito Santo, e probabilmente era la Madonna che parlava con loro, come io oggi parlo con voi, era lei che dettava le meditazioni in quei giorni di attesa dello Spirito Santo, e raccontava loro la storia della sua vocazione. E quindi l'angelo Gabriele, al sesto mese dal concepimento di Elisabetta, del figlio che poi si chiamerà Giovanni, va appunto da Maria, che è sua parente, poi lo scopriamo dopo, no? Sono parenti. E entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. In effetti questo, il saluto dell'angelo, il saluto abituale tra le persone del popolo di Maria, era shalom, che è un saluto che significa pace, no? Che poi Gesù usa molto: vi do la pace sia con voi. E invece l'angelo sceglie un altro saluto. Naturalmente l'originale di questo Vangelo è in greco, quindi il greco dice Kaire, che significa, si può tradurre come noi traduciamo nell'Ave Maria, Ave, cioè ti saluto, no? Ti saluto piena di grazia. Però il significato pregnante, pieno di questa parola greca, significa rallegrati, sii contenta, Maria. Anzi, in questo caso non la chiama Maria, ma la chiama piena di grazia, che significa che è un altro nome con cui possiamo chiamare Maria. È il primo nome con cui la chiama l'angelo. E anche questo nome, piena di grazia, se alcuni di voi sicuramente siete in grado di leggere l'originale greco, la parola suona kecharitomene, no? Che anche lì dentro c'è charis, c'è questa grazia. Grazia che poi è all'origine della parola anche carità, no? Amore, piena di grazia, piena d'amore. E sii contenta, rallegrati, il Signore è con te. E lei, mettiamoci nei panni di Maria, anche se forse non è facile, o forse sì, però è nostra madre, possiamo farlo, no? E possiamo chiedere: mamma, cosa, raccontami cosa pensavi in quel momento, no? Raccontami cosa ha fatto il tuo cuore in quel momento, no? A quanti battiti è salito, e perché sei rimasta turbata, e che cosa ti domandavi? Ti domandavi che senso avesse un saluto come questo? Perché gli studiosi hanno studiato e hanno fatto anche un'ipotesi che a me pare molto bella, perché noi immaginiamo, e siamo sicuri che è così, che la Madonna, che Maria, questa giovane di Nazaret, piena di doni di Dio, piena di grazia, conosceva anche molto bene la Sacra Scrittura. Fra l'altro dovete pensare che allora i libri non erano tanti, no? E quindi c'era anche la possibilità, no? Non c'erano molti canali televisivi, anzi non ce n'era nessuno, non c'era internet, non c'era, cioè tantissimi messaggi che noi abbiamo non c'erano, quindi per loro la Bibbia, che loro conoscevano, l'Antico Testamento, la studiavano molto, avevano tempo di approfondirla, la ascoltavano e rimaneva impressa nel loro cuore, no? Anche perché ci riflettevano su. E anche noi ci riflettiamo oggi, no? Ma per dire che allora, avendo forse meno notizie, no? Avevano la possibilità di approfondire queste parole del Signore. E lei, con ogni probabilità, che cosa conosce? No? Conosce un profeta, uno degli ultimi profeti, no? Che si chiama Sofonia, Sofonia, il quale a un certo punto del suo brevissimo libro scrive delle parole che probabilmente a lei risuonano, perché a un certo punto si rivolge il profeta a Gerusalemme, no? E dice così: rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Il re di Israele è il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. E sapete che questo lo possono dire gli esperti di ebraico, nella Bibbia, quando qui dice il Signore è con te, usa una parola che letteralmente significa il Signore è nel tuo grembo. Rallegrati, figlia di Israele, figlia di Gerusalemme, perché il Signore è nel tuo grembo. Certo, loro, quando sentivano queste parole, pensavano ad una metafora, no? Sta parlando di Gerusalemme, è una metafora che riprende anche una parola più antica, quando c'era l'arca dell'Alleanza che viaggiava con loro nell'Esodo, e dicevano: il Signore è nel tuo grembo. Diceva così la Sacra Scrittura, no? Cioè, il Signore è dentro di te, nel tuo grembo, il grembo del popolo. Pensavano a Gerusalemme, è una bellissima città, e la donna è immagine della città, e il Tempio di Gerusalemme è nel suo grembo, proprio nel cuore della città. E loro pensavano: sta parlando il profeta di Gerusalemme, della nostra nazione, il Signore è nel cuore, nel grembo, proprio dentro, a questa città. E improvvisamente la Madonna, che è una ragazza, fra l'altro, molto intelligente, molto sveglia, molto sensibile alla parola di Dio, sente queste parole rivolte a lei. Rallegrati. Non si sente dire figlia di Gerusalemme, ma comunque la figlia non è. Pensavano che fosse un modo di dire Gerusalemme, tutto il popolo, un'immagine di questa nazione giovane. Invece si rivolge proprio a lei, alla figlia, che è Maria. E dice: il Signore è nel tuo grembo. Certo, lei rimane turbata. Mamma mia, queste parole che pensavo fossero rivolte a tutto il popolo di Israele, a tutta Gerusalemme, improvvisamente le sento rivolte a me, da un angelo del Signore. Cioè, di che rimanere un po' turbate, no? Quando come rimaniamo turbati, ma non nel senso della paura, ma nel senso di qualcosa di più grande di noi che ci prende quando scopriamo un disegno di Dio su di noi, no? A volte la chiamiamo la vocazione, no? Quello che c'è qualcosa che ci precede, qualcuno che ci ama, che pensa a noi e che pensa al nostro futuro in un modo così grande che noi non avremmo neanche potuto immaginarlo. Cioè, quelle parole in realtà sono rivolte a me. E in realtà poi Maria rimane turbata e si domanda che senso ha questo saluto, che è quello che noi facciamo anche adesso, e lo facciamo in genere quando ascoltiamo la parola del Signore nella messa, quando riflettiamo sul Vangelo, sulla Bibbia. Cioè, lei si domanda: che cosa significa per me questa parola? Noi lo possiamo Ce lo possiamo chiedere sempre quando ascoltiamo la parola di Dio, no? Cosa significa per me questo Vangelo di oggi? E adesso questo è il Vangelo di domani, no? Cosa significa per me questa parola, no? Io penso che ciascuno di voi può dire, ovviamente noi non abbiamo nessuno di noi ha la stessa vocazione di Maria, in quanto essere chiamato a essere la madre di Dio, però tutti noi possiamo pensare: il Signore mi ama, il Signore ha pensato a me, pensa a me continuamente, non si dimentica mai di me, non si dimentica mai, neanche quando di notte, quando io dormo, mi veglia continuamente, pensa a me con un amore infinito da tutta l'eternità, cioè prima che il mondo fosse, così dice San Paolo, prima che il mondo fosse, mi ha creato, mi ha scelto perché io fossi appunto santa e immacolata con lui nell'amore, dice San Paolo, frase simile, no? E lo dice di tutti i cristiani. E anche Gesù a un certo punto, anche Gesù, cioè soprattutto Gesù, diciamo, no? Quando a un certo punto, quando nella sua sta parlando con a Cafarnao, nella casa di Pietro, ci sono molte persone che lo ascoltano, poi Maria, sua madre, probabilmente un po' preoccupata perché si sono fatte già le 2 del pomeriggio e ancora non è tornato a mangiare a casa, o comunque insomma non lo so, con i suoi parenti bussano alla porta, dicono, chiedono se può venire, e lui, quando glielo dicono, c'è tua madre, ci sono i tuoi fratelli che ti cercano, lui dice: ma mia madre e i miei fratelli sono questi, quelli che ascoltano la mia parola, la custodiscono, la mettono in pratica. Per cui Gesù stesso in realtà, pensando a noi e parlando con noi, ci dice: guarda che tu sei mia madre, perché se tu custodisci nel tuo cuore la sua parola e la fai crescere, così come Maria ha fatto crescere il bambino Gesù nel suo grembo, in realtà tu diventi madre di lui. A parte che poi il Signore Gesù ci ha spiegato tante volte che lui veramente abita dentro di noi. Quindi Maria, nostra madre, tu che sei nostra madre, tu ci puoi insegnare che in te Gesù ha abitato con pienezza, è veramente tuo figlio, tu l'hai dato alla luce. Ma il Signore attraverso di te vuole dire a noi: guarda che io nel cristiano, in colui che ascolta la mia parola, in colui che mangia la mia carne e il mio sangue, io dimoro. L'ha detto proprio così. San Giovanni ha riferito: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io dimoro in lui. Quindi forse con questa immagine del grembo il Signore ci vuole dire: guarda che anch'io sto nel tuo grembo, in modo diverso da come sono stato nel grembo di mia madre, ma in modo analogo. Anche noi qui stiamo, appunto parlavamo prima del rito ambrosiano, Sant'Ambrogio lo dice quando parla della visita a Elisabetta, commentando il Vangelo di San Luca, anche lui dice proprio che tutti i cristiani sono chiamati a essere madri di Gesù. E allora noi abbiamo cercato di metterci dentro un po' ai sentimenti di Maria, al suo cuore, al suo turbamento. La nostra madre si è turbata e poi ha pensato e si domandava che senso avesse in tale saluto. Maria, una donna stupenda, meravigliosa, che poi è nostra madre, e quindi noi siamo suoi figli e quindi li assomigliamo. Vedete come mette insieme i sentimenti, che sono umanissimi, tutti noi abbiamo sentimenti, di turbamento, di timore, di angoscia. Il Vangelo parla di angoscia di Maria, quando ha perso Gesù nel Tempio, no? Di dolore sotto la croce, no? di speranza. I sentimenti li mette insieme con il pensiero, con la ragione. Il cuore e l'intelletto, no? Che sono dimensioni del nostro essere umano, che sono dimensioni tutte importanti, no? E forse è anche importante riuscire a metterle un po' insieme, la ragione che riesce a guidare i sentimenti che fanno capire alla ragione delle cose che a volte la ragione non capisce da sola, e il cuore capisce prima, no? E Quindi Maria è veramente una donna che riesce, anche in un momento così grande, a mantenere il controllo di sé e poi l'angelo continua, no? Perché le dice: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio. Infatti l'originale dice, nell'italiano non si usa perché, concepirai nel grembo. È un modo di dire ebraico che è rimasto nel greco di San Luca, concepirai nel grembo. Un figlio lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Gesù che significa Dio salva, il Salvatore. E queste promesse così grandi, così belle, così chiare, no? Si riferisce proprio all'attesa di tutto il popolo di Israele, al Messia, colui che salva ed è figlio di Dio, no? Figlio dell'Altissimo. Poi la Madonna chiede come avverrà questo, quindi no, non è che dubita che avvenga, solo gli chiede come. Quindi è molto diverso da il suo parente Zaccaria, che poi quando lo va a trovare lo trova muto perché lui non ha creduto. Dice: impossibile, questo non è possibile, io e mia moglie siamo anziani, poi siamo sterili, non è possibile che accada questo. E allora Gabriele dice: accadrà, però tu rimarrai muto perché non hai creduto, no? E anche questo è un bel mistero, no? Chissà cosa ci vuole dire il Signore, forse che il credere ci dà anche la possibilità di parlare, no? Accogliere la parola di Dio ci permette di poi di ridirla e che possa essere ascoltata, no? Poi dopo 9 mesi, quando il bambino nasce, lui, siccome ha recuperato la fede, poi recupera anche la parola, no? Maria invece non dubita, si turba non tanto perché l'angelo appare, ma per questa promessa così grande. Però crede. L'unica cosa che lei ha la convinzione, per un motivo che si può dare varie spiegazioni, che non avverrà questa nascita dal rapporto coniugale, no? Con Giuseppe. Molti pensano che si fossero impegnati a vivere la verginità, no? Da Sant'Agostino in poi si pensa questo, la maggior parte degli autori. Però in ogni caso lei vuole sapere come Dio ha previsto che io divenga la madre dell'Altissimo, no? Perché non conosco uomo, che significa non ho avuto rapporti con un uomo e forse non ne voglio avere in futuro, pur essendo sposa di Giuseppe. Ecco perché poi Sant'Agostino e tutti gli altri hanno pensato questo, no? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Questo è un altro richiamo all'arca dell'alleanza, che era sempre accompagnata da una nube, che significava la presenza di Dio, no? Quindi Maria è la nuova arca dell'alleanza, il nuovo luogo dove c'è, dove Dio abita. E poi gli parla di Elisabetta, sua parente, che nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria a quel punto dà il suo assenso. Voi pensate com'è grande il nostro Dio, com'è grande il nostro Padre Dio, il nostro Signore che è creatore e anche salvatore, che per risistemare tutto il genere umano, per donarci la sua grazia, vuole avere il sì libero di uno di noi, di una creatura, no? Cioè, così come i progenitori Eva e Adamo hanno detto no consapevolmente, forse non si rendevano conto di tutte le conseguenze, però il Signore vuole cominciare questa pienezza della salvezza venendo ad abitare in mezzo a noi attraverso il sì di una creatura. Anche qui noi possiamo applicare a noi stessi: il nostro sì a Dio, il nostro sì a Gesù che ci chiama, che ci chiede, che ci invita a fare parte della sua vita, il nostro sì è una cosa piccola, però ha delle conseguenze molto grandi, molto belle, no? Può fare del bene a molte persone e soprattutto portarci la gioia. Perché in effetti, se voi, noi ritorniamo a quel rallegrati figlia Maria, cioè abbi gioia in te, poi dopo anche si scopre che questa gioia è, appena Maria va da Elisabetta, e questo è il Vangelo che invece si legge nel ritorno domani, nella quarta domenica d'Avvento, e appena Elisabetta è entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Quindi, la prima cosa che fa Maria è corre, dice proprio in fretta, andò verso la regione montuosa in quei giorni, no? Corre da questa Elisabetta che è stata citata dall'angelo e le porta la gioia. Le porta Gesù, le porta la gioia. Con Gesù arriva la gioia. I pastori, quando vedremo nella notte di Natale, che vengono svegliati, o comunque erano svegli che guardavano il gregge, vengono incontrati dall'angelo che appare, gli dice: vi annuncio una grande gioia. Quindi tutta la tua nascita, Gesù, è circondata dalla gioia, tutto il tuo avvento, non potrebbe essere che così, cioè Dio che ha creato il cielo e la terra, questo essere infinito che nessuno osava, diciamo così, avvicinare, il popolo di Israele sì, ma dopo il peccato originale gli uomini avevano tanta paura. Prima del peccato originale passeggiava con Adamo nel giardino, era una situazione molto bella, poi l'uomo ha avuto paura, si è nascosto, è scappato. Ebbene, quando arriva Gesù nel grembo di Maria, l'angelo dice: sì, piena di gioia Maria, perché Gesù è nel tuo grembo. E poi Maria, la prima cosa che fa da Elisabetta, le porta gioia, e poi quando nasce Gesù arriva la gioia, una gioia grande, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Ed è così, no? E poi l'avvento del Signore non è che elimina le ombre, i peccati, il male, lo sappiamo bene, perché Erode lo vuole uccidere, devono scappare in Egitto, e così tutta la sua vita è anche piena di ombre, non solo di luci, come la nostra, come quella di Maria, è piena di luci e di ombre. Allora è normale, Maria, se tu che sei anche senza peccato originale, che sei tutta bella, tutta pura, se tu hai luce e ombre, se tu hai anche le angosce e hai i turbamenti, se tu hai dolore, allora è normale che nella mia vita ci sia anche questo. Io penso che la Madonna ci dice: ma sì, figlia mia, assolutamente. E non vuol dire che sei cattiva, non vuol dire che, anzi, queste situazioni che ti accadono sono un'occasione per tornare da me, vieni da tua madre a confidarti, o perché io intervenga nella tua vita a custodirti, a proteggerti. E avete in mente quelle immagini della Madonna che allarga le braccia e c'ha un manto, e poi tutte le persone, anche i bambini per esempio, no? C'è una immagine in un ospedale di Firenze, tutti i bambini che sono sotto il suo manto, no? Oppure, ecco, andate a Santa Maria delle Grazie, c'è questa immagine della Madonna che raduna sotto il suo manto tutti i suoi figli, no? Lei ci protegge così, e ci porta Gesù che è la gioia. Quindi anche la gioia del cristiano è presente anche in una dimensione di difficoltà, di tenebra, di dolore. È una gioia che sta, possiamo dire, al di sopra di tutte queste tempeste, oppure al di sotto, se, a seconda se siamo sulla terra, diciamo al di sopra, no? Delle tempeste, che c'è il sole, se siamo in mare, diciamo al di sotto delle tempeste, dove l'acqua è un po' più tranquilla. E allora io vi direi che appunto questi Vangeli dell'infanzia di Gesù, che noi ascoltiamo di nuovo domani nella messa, o l'uno o l'altro, ci portano a guardare Maria, a sentirci ancora una volta e di più figli di Maria e quindi fratelli e sorelle di Gesù. Questo Gesù bambino che nasce è, no, è il nostro Dio, è il nostro amore, è anche il nostro fratello, nel caso del neonato è fratellino, anche da accudire. E questo, io sono sicuro che la Madonna ce lo mette in braccio, ce lo mette così come lo passa a un certo punto a Giuseppe, perché sia lui a cullarlo, a farlo dormire, poi lei lo nutre e poi però anche tutti i pastori sono, cioè è subito a disposizione di tutti. E figuratevi di noi che siamo suoi fratelli e sorelle, no? Gesù è tutto per noi, per cui noi veramente potremo cantare insieme con la Chiesa: un figlio ci è nato, un figlio ci è dato. E poi questo è il regalo più grande di Natale, no? E la nascita di Gesù, e poterlo contemplare fatto uomo, no? Come ed è uomo per sempre, non è solo per qualche momento. Dio si è fatto come uno di noi, e questo ci dice tantissimo e ci dirà sempre tantissimo se noi contempliamo questa verità. Ci dice che tutta la nostra umanità, tutto il nostro essere ed essere creature spirituali in carne ed ossa, no? Tutto questo è qualcosa di grande, di divino, perché il Figlio stesso di Dio ha questa nostra stessa natura, quindi lui ci può capire del tutto, e Maria sua madre, che è una di noi, ci può capire del tutto. Vorremmo in questo Natale comprendere ancora di più, con l'aiuto di Maria, che tu Maria e il tuo Figlio Gesù ci comprendete totalmente, che non ci sentiamo mai incompresi da te e da tuo Figlio Gesù, che quindi possiamo venire con fiducia a confidarci, ad ascoltare la tua parola, per correre a metterla in pratica. E pensate a tutto quello che in questo anno il Papa Francesco ci dice, ci dirà anche con i suoi gesti, no? Ieri è stato alla stazione Termini ad aprire quel refettorio, cioè con i suoi gesti ci dice qualcosa che noi dobbiamo fare, no? Le opere di misericordia corporali e spirituali. Noi vogliamo ascoltare queste parole di Gesù e metterle in pratica, così siamo suo fratello, sua sorella e sua madre.